Il disgelo, giovedì 28 aprile. Nelle primissime ore del mattino, lungo la strada che dal Sörmland conduce nel Närke, camminavano Åsa, la guardiana d'oche, e il suo fratellino Mats. La strada costeggiava la riva meridionale del lago Hjälmar, quasi tutto ancora ricoperto dai ghiacci, ma questi ghiacci non avevano l'aspetto cupo e traditore che spesso assumono durante il disgelo. Erano ghiacci bianchi, scintillavano al sole e i ragazzi non vedevano che una nitida superficie splendente. Åsa e Mats, diretti a nord, pensavano che avrebbero risparmiato tempo se avessero attraversato il lago invece di costeggiarlo. Sapevano che è pericoloso fidarsi del ghiaccio in primavera, ma quel ghiaccio pareva tanto compatto. E così si avviarono sulle acque. Non si scivolava troppo, bastava evitare i punti in cui il ghiaccio era spezzato. E Åsa e Mats erano ben lieti di avere evitato le lunghe strade fangose. Arrivarono nei pressi dell'isola di Vinö. Una vecchia li scorse dalla finestra e scese subito a far loro gesti disperati, gridando qualcosa che i due non udirono, ma certo li avvertiva di non proseguire lungo quel pericoloso tragitto. Ma perché? Åsa e Mats vedevano bene che era impossibile sbagliarsi. Di là dall'isola si apriva una distesa di almeno 2 o 3 leghe con pozze d'acqua talmente grandi che bisognava girarle e i due facevano a gara a chi trovava il passaggio migliore. Si meravigliavano solo che la sponda opposta fosse così lontana, sebbene camminassero già da un'ora. Ho l'impressione che la riva vada indietro, disse Mats. Su quella grande pianura di ghiaccio nulla li riparava dal vento dell'ovest, che soffiava sempre più forte, rendendo faticosa la marcia, e anzi urlava come se portasse il frastuono di una fabbrica o di un mulino, e a un certo punto i due si resero conto che era il frastuono di onde che si rompevano contro una riva. Ma com'era possibile se tutta la superficie del lago era ghiacciata? Si guardarono attorno e laggiù a ovest scorsero una bassa muraglia bianca che tagliava il lago in due. La si sarebbe detta un mucchio di neve lungo il bordo di una strada ed era invece la schiuma delle onde scagliate contro il ghiaccio. Allora si presero per mano e si misero a correre senza parlare. A ovest il lago era aperto, la striscia bianca andava estendendosi rapidamente verso est, che il ghiaccio stesse per rompersi ovunque. Adesso si sentivano in pericolo. D'un tratto parve loro che il ghiaccio si sollevasse proprio là dove si dirigevano correndo, ricadendo e innalzandosi ancora, come per una spinta interna. In pari tempo udirono un colpo sordo e un istante dopo il ghiaccio fu tutta una crepa. Una breve pausa, poi un altro colpo sordo. Le crepe si allargarono in fessure, le fessure divennero crepacci, il ghiaccio si suddivise in banchi isolati e galleggianti. «Osa!» disse Mats, «è il disgelo!» Sì, è il disgelo, rispose la sorella, ma forse ce la facciamo a raggiungere la riva, corriamo! Vento e onde avevano ancora parecchio da fare per liberare tutto il lago dai ghiacci. Bisognava infatti spezzettare i grandi banchi, sbriciolarli, liquefarli e dappertutto c'erano grandi estensioni solide e compatte. Purtroppo i due procedevano a casaccio, allontanandosi dalla terra anziché avvicinarlesi, e a un certo punto, smarriti, sperduti, si fermarono e presero a piangere. Proprio in quella passò uno stormo di oche selvatiche e il loro volo era quasi un sibilo. Starnazzavano e ai bambini parve che una voce tra le altre dicesse: «Andate a destra! A destra!» Seguirono il consiglio, ma un nuovo crepaccio li bloccò e allora udirono le parole: «Aspettate lì dove siete, aspettate!» I due obbedirono, i banchi di ghiaccio si ricongiunsero e così poterono proseguire, tenendosi per mano, sebbene quel singolare aiuto li spaventasse non meno del pericolo reale. E siccome esitavano ancora, di nuovo la voce si fece udire: «Dritti davanti a voi, sempre dritti!» E così continuò per una mezz'ora, finché i due raggiunsero la punta di Lunger e poterono abbandonare il ghiaccio per la terraferma, guadando l'acqua in quel punto bassissima. Spaventati si affrettarono ad allontanarsi dalla riva, ma dopo qualche istante Åsa disse: «Aspetta qua, fratello, ho dimenticato qualcosa!» E tornò a riva. Cavò dalla bisaccia uno zoccoletto e lo posò bene in vista su un sasso. Poi tornò da Mats e un istante dopo una grande oca bianca piombò dall'alto, afferrò lo zoccoletto e tornò fulminea in cielo. La Dale Carlia. La notte di Santa Valpurga, venerdì 29 e sabato 30 aprile. Quel giorno Nils scoprì il sud della Dalecarlia, volò sopra le vaste miniere del Monte Granges e i grandi stabilimenti di Ludvika, poi sulle piane di Stora Tuna e sul Dalelf. Finché vide i comignoli delle fabbriche spuntare dietro ogni cima, poté credersi ancora nel Vestmanland, ma giunto che fu al grande fiume, tutto gli apparve assolutamente nuovo. Era il primo vero fiume che vedeva e Nils scorse le grandi cascate di Domnarvet e di Kvarnsveden e i grandi opifici che esse fanno funzionare. Vide i ponti galleggianti, i battelli da carico, le strade ferrate e capì che era un grande meraviglioso fiume. Quello era il sud della Dalecarlia. Qui, la sera di Santa Valpurga, è attesa dai ragazzi con la stessa impazienza della vigilia di Natale, perché possono accendere falò nelle campagne, raccolgono fascine e pigne, si fanno dare scarti di legno e giunto il gran giorno sulla collina o in riva ai laghi si accendono roghi di vecchi alberi di Natale e di ogni sorta di combustibili e a volte un villaggio ha anche due o tre falò se i ragazzi non sono riusciti a mettersi d'accordo. Trascorrono il pomeriggio passeggiando davanti alle cataste pronte, in attesa dell'oscurità per dar fuoco alla legna, ma è una stagione in cui annotta tardi. Alle 20 comincia il crepuscolo e fa freddo in quelle prime giornate di primavera. Il ghiaccio ricopre ancora i laghi. Nelle ore notturne la temperatura scende sotto zero. Finalmente l'oscurità si decide a calare e allora i fuochi appiccati dal ragazzo più grandicello divampano. E ce n'è uno su quella collinetta, un altro in cima a quel monte. Ognuno spera che il suo sia il più bello e il più grande. Quando il fuoco è ben vivo vengono ad ammirarlo gli adulti e i vecchi, si sta bene seduti attorno al falò a raccontare storie. La primavera tarda e il disgelo è lento e con quel calore si vorrebbe aiutarla, altrimenti le gemme non si decideranno più a spuntare. Le oche selvatiche si erano posate per la notte sui ghiacci del lago Silian e Nils si era rifugiato sotto l'ala di Morten per ripararsi dal freddo vento del nord. Fu svegliato da uno sparo, balzò in piedi e si guardò attorno spaventato, ma di cacciatori neppure l'ombra. Scrutò allora le rive del lago e rimase sbalordito e incantato. Aveva davanti agli occhi una visione fantastica come quella di Vineta. Nel pomeriggio le oche avevano sorvolato più volte il lago in cerca del luogo adatto e Nils aveva visto Leksand, Retvig, Mora e l'isola Solerö. Ma adesso l'intero paese sembrava in fiamme. Fuochi brillavano a Mora, a nord del lago, sulle rive dell'isola Solerö, a Vikarbin, sul Sjurberg, sul monte di Lerdalen, su tutti i colli e i promontori fino a Leksand. Ne contò più di 100 e non ci capì più nulla. Anche le oche s'erano destate allo sparo, ma H spiegò: sono i ragazzi dei villaggi che si divertono e tutte le oche si riaddormentarono. A poco Nils si era avvicinato a riva. A un tratto udì le note di un canto e allora si mise a correre verso terra. In fondo al golfo di Retvik, sul pontile che si protende nel lago, stava un gruppo di cantori e pareva che con le loro voci volessero svegliare la primavera. Nils rimase a lungo in ascolto e quando il coro finì riprese a correre verso terra. Un falò ardeva sulla spiaggia, così vicino che Nils scorgeva la gente seduta o in piedi attorno alle fiamme. Nuovamente si chiese se non era un miraggio. Mai aveva visto gente simile. Le donne portavano cuffie nere appuntite come corni, corte giacche di cuoio bianco, al collo avevano fazzoletti dai vivaci colori. I corsetti erano di seta verde, le gonne nere ornate sul davanti di strisce bianche, rosse e verdi. Gli uomini portavano invece cappelli tondi e bassi, lunghissime casacche azzurre con le cuciture rosse, calzoni di cuoio giallo chiusi al ginocchio da legacci rossi a fiocchetti di lana. A Nils pareva gente diversa da quella di ogni altra provincia, con un aspetto più nobile e imponente. Si rammentò dei vecchi costumi che sua madre conservava nella cassapanca e che nella Scania nessuno indossava più da un pezzo. Gli era stato dunque concesso di vedere uomini e donne di un'altra età tornati a rivivere per una notte? Ma fu solo l'impressione di un attimo. Quelle che vedeva erano persone in carne e ossa. Erano gli abitanti della Dalecarlia, che conservavano nelle usanze, nel linguaggio, nelle costumanze tanto del passato da giustificare la breve illusione di Nils. Attorno alle chiese, domenica 1 maggio. Il giorno dopo, al risveglio, Nils non poté trattenere una risata. Era nevicato tutta la notte e continuava a nevicare. L'aria era un turbinio di grossi fiocchi e sul lago Silian si era formata una bianca coltre dello spessore di parecchi centimetri. Le oche sembravano altrettanti mucchietti di neve. Di tanto in tanto una di loro si riscuoteva, ma visto che non smetteva di nevicare, rificcava la testa sotto l'ala e Nils finì per riaddormentarsi anche lui. Lo destarono, ore dopo, le campane di Rättvik. Era il giorno della prima comunione e i comunicandi, giunti di buon'ora, formavano capannelli davanti alla chiesa, vestivano costumi paesani, pittoreschi e sgargianti. Aveva smesso di nevicare e le oche si riscossero, pronte a volare sulla terraferma in cerca di pastura. «Cara mamma Akka», la pregò Nils, «cerca di volare un po' più adagio del solito, vorrei vedere i ragazzi». La vecchia oca lo accontentò, facendo 3 volte il giro del campanile. E a Nils, quelli raccolti davanti alla chiesa parvero i ragazzi più belli del mondo, tanto che esclamò: «Non credo ci siano principi o principesse più belli». A Rättvik la neve copriva tutti i campi e allora H puntò a sud verso Leksand, dove i giovani, come al solito, erano partiti in cerca di lavoro all'inizio della primavera e a casa erano rimasti solo i vecchi. Una fila di donne anziane si avviava alla chiesa lungo lo splendido viale di betulle. Erano vestite tutte di bianco, giacca corta di pelo di pecora, gonna di cuoio, cuffie candide sui capelli d'argento. Di diverso colore solo il grembiule, giallo oppure a strisce bianche e nere, e parevano scivolare come fantasmi sopra uno sfondo di sogno. «Vola adagio, mamma Oka, per vedere bene quelle vecchie», pregò Nils, e Akka lo accontentò. «Si direbbero madri di re e di regine», pensò il ragazzo. Aleksand, la neve era non meno abbondante che a Rättvik, e Akka decise di spingersi ancora più a sud, verso Floda. Qui si celebrava uno sposalizio e il corteo nuziale era radunato davanti alla chiesa. La sposa portava una corona d'oro sui lunghi capelli sciolti ed era coperta di gioielli, fiori, nastri colorati. Lo sposo portava una lunga casacca turchina e un berretto rosso. Le damigelle d'onore si distinguevano per le ghirlande di rose e tulipani ricamate sulla cintura e sull'orlo della gonna, e anche i parenti e i conoscenti sfoggiavano i variopinti costumi locali. «Cara mamma Akka, vola più adagio perché possa vedere gli sposi», pregò Nils. L'oca lo accontentò e fece 3 volte il giro della chiesa. «Mi chiedo se il re e la regina indossino abiti più belli nel loro castello», pensò Nils. A Floda finalmente le oche trovarono campi senza neve e poterono scendere a mangiare. L'inondazione. Domenica, mercoledì 1-4 maggio. Per parecchi giorni c'era stato un tempaccio orribile a nord del lago Mälar. Cielo grigio, vento impetuoso, pioggia sferzante. Uomini e animali sapevano che è il prezzo che bisogna pagare per la primavera, ma la loro pazienza era messa a dura prova. La neve accumulata nelle abetaie cominciò a sciogliersi, i ruscelli a rigare i pendii. L'acqua delle pozzanghere, quella lenta dei fossati, quella subdola di paludi e pantani, si metteva ovunque in movimento per raggiungere i rivi ed essere trasportata al mare. Una notte, la crosta ghiacciata dei numerosi laghetti dell'Uppland e del Monte Slag si infranse di colpo e i corsi d'acqua, ostruiti dai blocchi di ghiaccio, presero a montare rapidi e il lago Mälar, per quell'afflusso improvviso, si avventò verso lo sbocco. Ma il Nordström, il suo emissario, è angusto, senza contare che il vento dell'est spingeva le onde del mare verso terra, sbarrando il Nordström. Il lago Mälar, infine, straripò. Saliva lentamente, quasi a malincuore, come se gli dispiacesse guastare le belle rive. È un lago un po' particolare, il Mälar, composto com'è di tanti piccoli specchi d'acqua separati da lingue di terra, con un gran numero di isole, isolotti e boscosi promontori. Non ci sono rive aspre e rocciose, e il Meller sembra fatto apposta per i castelli, le ville estive, la vita all'aperto. Forse per questo tanto più impressiona quando in primavera assume un aspetto minaccioso. Battelli e barche tenute al riparo durante l'inverno vennero in gran fretta calafatati e messi in acqua. I sorveglianti delle strade ferrate lungo le rive andavano su e giù senza chiudere occhio né di giorno né di notte. I pescatori mettevano in salvo reti e nasse, i traghetti erano carichi di viaggiatori ansiosi di partire prima che l'inondazione li bloccasse. Ma ad aver paura non erano solo gli uomini. Le anatre intente alla cova lungo le rive, i topi campagnoli e i topi ragno che vivevano sulle sponde e che avevano i piccoli nei nidi, persino i cigni, orgogliosi, cominciavano a temere la distruzione della prole. I timori non erano infondati. La piena del Mälar aumentava ogni giorno, prati e strade furono sommersi, alci che avevano trascorso l'inverno su un'isola dovettero raggiungere la terraferma a nuoto. E proprio in quel torno di tempo Smirre, la volpe, s'aggirava un giorno in un boschetto di betulle a nord del Melar. Pensava sempre alle oche e all'ometto e ne aveva perduto le tracce. Fu così che scorse Agar, il piccione viaggiatore appollaiato su un ramo. «Lieto di incontrarti, Agar», gli disse. «Sapresti dirmi per caso dove si trovano in questo momento Akka di Kebnekaise e il suo stormo?» «Può darsi che io lo sappia», rispose Agar, «ma sta certo che non te lo dirò», replicò Smirre. «Mi basta che tu le trasmetta un messaggio di cui sono l'autore. Hai visto in che stato deplorevole sono le rive del Melar, no? Bene, i cigni che abitano la baia di Jelsta rischiano di perdere uova e nidi, e luce del giorno il loro re ha udito parlare del piccolo uomo che sta con le oche e che conosce il rimedio per ogni male. M'ha incaricato di pregare Akka di venire col piccoletto alla baia di Jelsta». «Posso trasmettere il messaggio», disse Agar, «ma non vedo come quell'omino possa soccorrere i cigni». «Neppure io», fece Smirre, «ma mi dicono che è in grado di risolvere tutti i problemi». «Mi meraviglia anche che il re dei cigni si serva di una volpe per i suoi messaggi», obiettò Agar. «Infatti, di solito siamo nemici», ammise Smirre con voce mite. «Ma di fronte a un simile disastro bisogna aiutarsi, dico bene?» «Comunque faresti meglio a non riferire ad Akka che ad affidarti l'incarico è stata una volpe, perché Akka è molto sospettosa». I cigni della baia di Jelsta. La baia di Jelsta, con le sponde bassissime, l'acqua poco profonda e invasa dai canneti, è il rifugio più sicuro per tutti gli uccelli acquatici del Mälar. Numerosi sono i cigni che vi abitano e il proprietario dell'antica tenuta reale di Elkosund, situata poco lontano, ha vietato la caccia nella baia per non disturbarli. Ricevuto il messaggio, Akka partì subito per la baia e lei e i suoi si avvidero subito dell'entità del disastro. Strappati dai loro sostegni, i nidi dei cigni galleggiavano in balia del vento, ma i cigni dicevano che non valeva la pena di disperarsi, che il materiale non mancava e che li avrebbero rifatti. Nessuno di loro aveva mandato a chiedere aiuto, nulla sapevano del messaggio trasmesso da Smirre ad Agar. Erano a centinaia, disposti in ordine di età, i giovani alla periferia, i vecchi e più saggi al centro, attorno al re, luce del giorno e alla regina, neve serena. I due sovrani ricordavano i tempi in cui in Svezia i cigni della loro razza non vivevano allo stato selvatico, risiedevano, domestici, negli stagni e nei fossati dei castelli. Poi una coppia era fuggita per andare a stabilirsi nella baia di Hjelsta e adesso erano numerosi i cigni della loro stirpe in diversi laghi. Akka era molto stupita del messaggio ricevuto, ma lo considerava un grande onore e per nessuna ragione avrebbe rifiutato il suo aiuto. Non era la prima volta che si recava in visita dal re e dalla regina dei cigni superbi, ma non le andava di passare in mezzo a quelli del seguito, al confronto dei quali si sentiva piccola, grigia e meschina. E a volte aveva afferrato a volo mezze frasi come pezzenti e volgari. Ma questa volta i cigni si scostarono con deferenza e le oche selvatiche avanzarono lungo una sorta di viale con grandi uccelli dalle ali candide e seriche con aria rispettosa. Evidentemente il re aveva dato ordine di portare rispetto alle oche di Akka. Purtroppo i cigni si accorsero del candido papero che chiudeva la fila e un mormorio di stupore e indignazione percorse la folla assiepata e addio le belle maniere di cui avevano dato prova fino a quel momento. Come? Esclamò uno. Le oche selvatiche si mettono a indossare piume bianche? E un altro. Credono forse di essere cigni? E ancora. Deve essere il re delle oche, oppure che insolenza! E ancora, non è un'oca, è un'anatra domestica. Morten faceva orecchie da mercante e tirava via, ma i cigni, sempre più indignati, diventavano aggressivi. E che cos'è quel ranocchio che porta sulla schiena? Chiese uno di loro. Credono forse che non sappiamo riconoscere un ranocchio, sia pure travestito da uomo. H. Era giunta intanto al cospetto del re e stava per chiedergli che razza di aiuto volesse da lei quando il sovrano si accorse dell'agitazione. Che succede? Chi osa disobbedire al mio ordine di mostrarsi educato con le oche? La regina andò a rimettere ordine, ma fu subito di ritorno, annunciando che c'era un'oca selvatica bianca, che era una vergogna e che non c'era da stupirsi che i cigni si ribellassero. Un'oca selvatica bianca? Ripeté il re. Hai visto male, cara? Non ne esistono. Di certo ti sei sbagliata. Attorno a Morten la ressa era al colmo. Avanzò il re e quando vide il papero montò su tutte le furie. Gli si precipitò addosso e gli strappò due penne. Invano H. e Nils, comprendendo che i cigni l'avrebbero spiumato vivo, gli consigliarono di volar via. Morten, stretto d'assedio, non aveva spazio per muovere le ali e i cigni allungavano i becchi per strappargli le penne, mentre lui si difendeva alla meno peggio. Allora, le altre oche diedero addosso ai cigni, ma avrebbero certamente avuto la peggio se non fosse stato per una capinera che, avendo assistito alla scena, lanciò il grido acuto che serve a far radunare gli uccelli per difendersi da uno sparviero o da un falco, e in un batter d'occhio uno stormo fittissimo si precipitò, cinguettando e trillando verso la baia di Helsta, gettandosi sui cigni, frastornandoli con le grida, accecandoli con le ali e gridando: Vergogna, cigni! Vergogna, vergogna, cigni! Un assalto che fu di breve durata, ma sufficiente perché le oche selvatiche volassero sulla riva opposta. Il nuovo cane da guardia. Per fortuna, i cigni erano troppo orgogliosi per inseguire le oche, le quali poterono tranquillamente addormentarsi tra i canneti. Nils aveva fame, saltò su un pezzo di legno alla deriva e, servendosi di uno stecco come remo, si accostò alla sponda. Stava per sbarcare quando udì uno sciacquio. A pochi metri da lui un cigno femmina dormiva nell'ampio nido, ma Nils vide anche una volpe che avanzava nell'acqua per sorprenderla. Eila, Eila, sveglia, sveglia! Gridò Nils battendo l'acqua con il remo. Il cigno singolò, ma la volpe avrebbe avuto il tempo di acchiapparlo se non si fosse gettata sul ragazzo. Nils scappò a gambe levate, ma davanti a lui non c'erano che prati senza riparo. A breve distanza, tuttavia, sorgevano due capanne con le finestre illuminate e Nils vi si diresse. La volpe stava per raggiungerlo, ma il ragazzo con uno scarto le sfuggì e s'acquattò dietro un masso. Poi, mentre la volpe lo cercava, scorse due uomini che tornavano dal lavoro e li seguì da vicino, pensando che il predone non avrebbe osato accostarsi a loro. Li vide entrare in una delle capanne e stava per fare altrettanto, ma cambiò parere scorgendo un bel cane da guardia, grosso, forte e dal lungo pelo, che sulla soglia faceva le feste al padrone. Ed entrati che furono gli uomini, andò da lui e gli propose di aiutarlo ad acchiappare una volpe. Il cane aveva la vista debole ed era bisbetico e cattivo a furia di stare alla catena. Abbaiò furibondo e chiese: Mi stai prendendo in giro? Chi sei per permettertelo? Vieni più vicino che ti do una lezione. Non ho paura di te, disse Nils obbedendo, e quando il cane lo ebbe sott'occhio restò a bocca aperta. Nils gli disse di essere il nanetto che accompagnava le oche selvatiche, e il cane rispose di averne già sentito parlare. È vero che hai compiuto dei miracoli? Miracoli proprio no, rispose il ragazzo. Semplicemente finora ho avuto fortuna. Solo che adesso, se non mi aiuti, sono perduto. C'è una volpe che mi dà la caccia e si è nascosta dietro l'angolo della casa. Il cane assicurò che l'avrebbe sistemata lui, ma si limitò ad abbaiare, mentre Smirre, visto che non c'era ragione di temere, avanzava nel cortile. Il cane però era scomparso. Nils l'aveva portato dentro la cuccia. Smir se ne stava seduto sulle zampe posteriori, in mezzo al cortile, quando il cane s'affacciò all'apertura del canile e minacciò: «Vattene, se no ti mordo!» La volpe sogghignò e non si mosse. «So benissimo quanto è lunga la tua catena», disse. E il cane: «T'ho avvertito, tanto peggio per te!» E balzò addosso alla volpe. Era libero perché Nils l'aveva slegato. Un istante dopo la volpe era a terra e non osava muoversi. Il cane la afferrò alla collottola con i denti, la trascinò nel canile e Nils la legò saldamente alla catena. La volpe non osò fare un movimento. «E adesso spero, Smir, che sarai un buon cane da guardia», le disse Nils, andandosene. La saga dell'Upland. Giovedì 5 maggio. L'indomani non pioveva più, ma le acque continuavano a crescere. Nel pomeriggio, invece, il tempo cambiò all'improvviso. Diventò limpido e asciutto, faceva quasi caldo. Comodamente sdraiato in un ciuffo fiorito di «Non ti scordar di me», Nils contemplava il cielo. Due scolaretti con i libri e il cestino della merenda avanzavano lentamente lungo la riva. Giunti vicino a Nils, si sedettero su un sasso per discorrere dei loro guai. «Chissà che cosa dirà la mamma quando saprà che neanche oggi abbiamo saputo la lezione», sospirò uno. «E l'altro? E papà allora?» E si misero a piangere. In quella comparve una vecchietta dal viso dolce e rugoso e si fermò ad osservarli. «Perché piangete?» Risposero che avevano paura di tornare a casa perché non avevano saputo la lezione a scuola. «E qual era la lezione?» «Oh, figurarsi, tutta la storia dell'Upland!» La vecchietta assicurò che non è sempre facile imparare sui libri e, sedutasi anche lei su un sasso, parlò di quello che le aveva insegnato sua madre. Lei personalmente non era mai stata a scuola, fece osservare, e poi l'Upland un tempo era una delle regioni più povere della Svezia, terreni argillosi e colline sassose. Gli altri distretti lo disprezzavano e un giorno, stanco di questo stato di cose, l'Upland prese bisacce e bastoni e andò a chiedere la carità a chi nuotava nell'abbondanza. Si diresse dapprima verso sud, dalla Scania, alla quale chiese un po' di terra. «Non si sa più che cosa dare a tutti questi accattoni», borbottò la Scania. «Un momento però, ho finito adesso di scavare un po' di miniere, se ti serve portati pure via la terra che ho accumulato lì fuori». L'Upland accettò, ringraziò e continuò il viaggio. Salì fino al Västergötland e anche lì pianse miseria. Il Västergötland non aveva da regalargli altro che uno di quei piccoli corsi d'acqua che serpeggiavano nella sua grande pianura. E l'Upland accettò, ringraziò e si incamminò verso lo Halland, dal quale ebbe in dono qualcuna delle sue collinette sabbiose. Curvo sotto il peso della bisaccia, l'Upland andò dal Bohuslän, che gli permise di portarsi via tutti gli isolotti nudi e i deserti e gli scogli che voleva. L'Upland era grato di tante elemosine, accettava tutto, per quanto fosse sempre roba di scarto. Dal Värmland ebbe un po' di terreno granitico, dal Västmanland una parte delle lunghe creste che lo attraversavano, dall'Östergötland una parte della selvaggia foresta del Kolmården, lo Småland gli riempì la bisaccia di paludi, sassi e lembi di brughiera. Il Sörmland non volle cedergli che alcune baie del Mälar e la Dalecarlia, che teneva troppo alle sue terre per darle ad altri, offrì in compenso un pezzo del Dalelf. Infine, dal Närke, l'Upland ebbe in dono alcuni dei numerosi acquitrini sulle rive dello Hjälmar. E a questo punto l'Upland pensò di tornarsene a casa. Vuotò la bisaccia e fece l'inventario di quel che aveva raccolto. Non era che una collezione di rifiuti, come utilizzarli? Passava il tempo e l'Upland, chiuso in casa, cercava di mettere un po' di ordine nelle sue faccende. Proprio in quell'epoca si cominciò a discutere sulla capitale della Svezia e la residenza del re. Tutte le province si radunarono per deliberare e, ben inteso, tutte volevano accaparrarsi sua maestà. «Io credo», disse l'Upland, «che il re dovrebbe stabilire il suo domicilio nella provincia più abile e più saggia». Tutti si dissero d'accordo e venne deciso di scegliere come sede regale la provincia che avesse dato prova di maggior bravura. Erano appena tornate alle loro case quando le province ricevettero l'invito a un banchetto da parte dell'Upland. accettarono, pur chiedendosi che cosa avesse da offrire un simile pezzente. Giunti nell'Upland, passarono di stupore in stupore. L'interno della provincia era costellato di fattorie. Sulla costa sorgevano città, le acque erano percorse in ogni senso da navi. «Vi ho invitati», disse Lupland agli ospiti scandalizzati che si potesse andar mendicando quando si possedeva tanta roba, «per ringraziarvi dei vostri regali. Appena tornato ho incanalato il Dalelf entro i miei confini, ho creato due cascate, una a Söderfors, l'altra a Ålvkarleby. A sud del fiume, ad Dannemora, ho messo il terreno granitico avuto dal Värmland, il quale probabilmente ignorava che fosse ricco di ottimo minerale ferroso. Attorno ho disposto la foresta regalatami dall'Östergötland e ho ottenuto così uno splendido distretto minerario ricco di acqua e di carbone e di legna. A questo punto il nord era sistemato e allora ho allungato le creste del Vestmanland fino al Mälar, ricavandone promontori e isole, ben presto verdeggianti e fioriti come giardini. Le baie avute dal Sörmland le ho fatte entrare nella terra come fiordi e sono altrettante strade aperte alla navigazione e al commercio mondiale. Poi mi sono occupato dell'est. Gli scogli, i mucchi di pietra, le collinette, le lande che mi avete donato, le ho lanciate in mare, dove sono divenuti isolotti utilissimi per la pesca e la navigazione. Sono anzi la mia proprietà più preziosa. Infine, con la terra tolta dalla Scania, dalle sue miniere, ho formato la fertile pianura di Vaksala. Le altre province ammisero che Lupland aveva sfruttato al massimo le sue risorse. Di tutti noi, gli dissero, sei tu che hai dato prova della maggiore industriosità e saggezza. Replicò Lupland, poiché lo ammettete, dunque spetta a me fornire la sede al re e alla capitale. E così avvenne, perché l'intelligenza e la saggezza ancora oggi trasformano i mendicanti in principi. Piuma Fina, la città che galleggia sull'acqua. Venerdì 6 maggio. Tutti volevano un gran bene a Piuma Fina. Morten si sarebbe gettato nel fuoco per lei e Acca stessa non sapeva dirle mai di no. Quando giunsero al Mälar, Piuma Fina riconobbe il paesaggio. Di là dal lago si stendeva il mare su un'isoletta del quale abitava la sua famiglia e pregò i compagni di fare una deviazione prima di puntare a nord. Fu accontentata. Partirono al mattino volando verso est sopra il Mälar. Nils osservò che le rive si facevano sempre più abitate e che via via aumentava l'animazione sulle acque. Chiatte, barche a vela, battelli da pesca e da diporto andavano tutti nella stessa direzione e una miriade di vaporetti candidi facevano la spola tra una sponda e l'altra. Su una delle isole torreggiava un magnifico castello. Le ville, dapprima isolate, si infittivano a mano, susseguendosi ormai ininterrottamente. Alcune erano sontuose, altre rustiche come fattorie, molte avevano bei giardini. Costruite con legname dei boschi circostanti, erano dipinte a colori vivaci, verde e azzurro, bianco e rosso, come case di bambola. All'improvviso, Piuma Fina gridò, «Eccola, riconosco la città che galleggia sull'acqua!» Nils aguzzò lo sguardo, ma dapprima non vide che brume leggere, ondeggianti sul lago. Poi gli apparvero azzurri pinnacoli, case con lunghe file di finestre. Pareva davvero che tutte quelle costruzioni sorgessero direttamente dall'acqua. E nel frattempo erano scomparse le ville sulle rive, sostituite da cupe fabbriche. Grandi depositi di legna a carbone si accumulavano entro recinti, pesanti piroscafi erano attraccati a pontili polverosi e neri. Una lieve foschia velava il paesaggio conferendogli una sorta di splendore. Lasciatesi alle spalle fabbriche e depositi, le oche si accostarono ai pinnacoli nebbiosi ed un tratto la foschia precipitò in basso nascondendo l'acqua, la terra e la base degli edifici, di cui non si scorgevano che i tetti, le torri, i comignoli e gli alti frontoni. Nils si rendeva conto che stavano volando sopra una grande città. A volte, se uno squarcio s'apriva nella coltre di bruma, scorgeva un fiume impetuoso e chiassoso, ma nessuna terra. Attraverso una nebbia meno densa scorse poi, oltre la città, sponde lontane, vastissime distese d'acqua e isole. Si volse, nella speranza di vedere meglio la città, Ma invano. Lo spettacolo era più fantastico che mai. Vivamente colorate dal sole, le brume vagavano rosee, azzurre, arancioni. Le case erano bianche e illuminate dai raggi, al punto da parere imbevute di luce. Vetrate e cupole brillavano come per un incendio e la città sembrava pur sempre galleggiare sul liquido elemento. Le oche selvatiche continuavano a volare verso est, gli specchi d'acqua si facevano sempre più vasti, le isole più grandi, gli alberi a foglia caduca divenivano più rari, cedendo il posto ai pini, e le ville erano sostituite da casupole di pescatori e da fattorie. E infine non si videro più grandi isole abitate, ma solo una quantità di isolotti e scogli sparsi sul mare illimitato. Le oche scesero su una roccia e Nils chiese a Piumafina: «Che città è quella che abbiamo sorvolato?» «E l'occhetta cinerina? Non so come la chiamino gli uomini, ma noi oche la conosciamo come la città che galleggia sull'acqua.»